Pronto. Ciao, Don Bucky, come stai? Voglio dormire. Fammi ancora riposare. Non telefonarmi più. Ora ho sonno da morire. Voglio insisterai, io con te non uscirò, in fin dei conti, noi siamo già usciti, perciò ti prego, non svegliarmi mai più. Sono una.